Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo del piccolo libro che salva i tuoi soldi. Un piccolo libro, ma un libro molto denso, di molte pagine, di molte notizie, che è scritto da Jason Zweig, che è curatore della rubrica del Wall Street Journal dedicata agli investimenti e alla finanza personale, ed è un libro che si inserisce in una iniziativa editoriale e non solo editoriale. Ne parliamo con Roberto Cepparo. Buonasera, dottor Cepparo. Buonasera. Che è l'editore della collana di libri di CHW Edizioni, in cui appunto è stato realizzato questo libro, che è il secondo volume. Il primo volume è Il piccolo libro che batte il mercato azionario. È un proposito certamente molto condivisibile, anche se è molto un po' difficile da mettere in pratica. E anche Il piccolo libro che salva i tuoi soldi in questa fase di crisi finanziaria è certamente interessante. Ne parliamo anche con Alessandro Milesi. Buonasera, Milesi. Buonasera a voi. Titolare del sito www.finanze.net, consulente finanziario indipendente, e che appunto si inserisce in questa iniziativa che vuole con i libri cercare anche di attuare quella che loro chiamano, adesso ci diranno come mai, democrazia finanziaria. Allora, dottor Cepparo, un'iniziativa che parte da un libro ma che si svolge anche attraverso altre realtà. Sì, esattamente. Direi che il libro è solo uno degli aspetti. Il progetto sostanzialmente è partito dalla constatazione che risparmiatori e investitori sono sempre più insoddisfatti di quelle che sono banche e istituzioni finanziarie che offrono servizi di investimento. Allora l'idea è constatata anche la situazione in Italia di una grossa carenza a livello di cultura finanziaria per quanto riguarda l'investitore medio, è stata quella di proporre insieme, unendo le forze, Alessandro Milesi col sito finanze.net, la nostra casa editrice, di proporre un progetto che avesse costantemente tre obiettivi. Primo, di dare un'informazione chiara alla portata di tutti per comprendere le regole dei mercati finanziari, e questo con la pubblicazione di una serie di libri che sono una linea di libri, che ne sono usciti due attualmente, il progetto è appena decollato come questa primavera, e qui faranno seguito altri testi che toccheranno temi e settori del mercato diversi. Questi libri hanno una caratterizzazione di essere libri facili da leggere, quindi ma per nulla scontati, sono quindi necessari al neofita ma validi anche per l'investitore evoluto, e sono scritti soprattutto da investitori e analisti di successo. Ecco, sono libri che nascono dall'esperienza americana, lo si vede anche leggendo questi libri, un'esperienza molto pragmatica, molto diretta, molto immediata, però che hanno avuto anche, sono passati un po' al vaglio anche della realtà italiana, perché si fa riferimento anche poi al mercato finanziario concretamente italiano. Ecco, è molto diversa questa realtà, chiedo a Alessandro Milesi, la realtà americana da quella italiana? Io credo che ormai le tematiche si stiano uniformando per motivi che non sono necessariamente positivi, ma viviamo in uno scenario strutturale di alto debito pubblico, è una realtà condivisa da entrambe le parti dell'Atlantico, e viviamo in una realtà dove di nuovo il pubblico sta ritrasferendo sul privato tutta una serie di aspetti relativi alla crisi finanziaria che sembrava poter risolvere autonomamente, e dove invece la mano del privato è necessaria. Quindi direi che anche i comportamenti dei mercati saranno in futuro, a nostro parere, sempre più uniformi in Europa e negli Stati Uniti. Ecco, voi parlate di democrazia finanziaria, un capitolo del libro si dice come dormire sonni tranquilli. Non è un obiettivo un po' ambizioso, dottor Cepparo? Ma è chiaro che non c'è nulla di certo nella vita, però lo scopo di queste pubblicazioni, di questi libri, di questo progetto, è quello di mettere in condizione l'investitore che non ha una preparazione specifica, con una, per dargli una serie, come dicevo prima, una serie di informazioni, un supporto di educazione e di cultura finanziaria che gli consente di comprendere i mercati, e affiancando soprattutto questo pilastro fondamentale, il sito internet, che dà un'assistenza gratuita sostanzialmente ai lettori per comprendere, approfondire le tematiche trattate nei libri e applicare le strategie che sono divulgate con questi libri, strategie che, ripeto, sono strategie di di personaggi che lontani dal concetto di speculazione finanziaria, ben lontani da questo concetto, seguono da tempo strategie di investimento che hanno dato di grossi risultati, ottimi risultati. Quindi il concetto di dormire a sogni tranquilli, che cito nel secondo libro, il piccolo libro che salva i tuoi soldi, è sostanzialmente dare una serie di parametri, di riferimenti, di guida pratica, sostanzialmente questo libro, il manuale pratico di sopravvivenza sui mercati finanziari al giorno d'oggi, e quindi dare delle indicazioni che consentano di ridurre ai minimi i rischi facendo delle scelte oculate, perché poi ci sono degli aspetti importanti che il libro tratta, anche dove non è tanto il problema del mercato quanto l'irrazionalità dell'investitore, degli investitori nell'insieme, anche del singolo, che spesso viene portato a fare delle scelte che sono di razionale hanno ben poco, oppure anche il problema di quelle che sono le offerte sul mercato da parte di promotori o di consulenti finanziari che propongono investimenti apparentemente a basso rischio che invece nascondono dei grossissimi pericoli, grossi rischi. Quindi questo libro cerca di introdurre il risparmiatore, l'investitore su mercati a capire realmente quali sono le problematiche e a tutelarsi per evitare di cadere, di far sogni agitati. Ecco, vorrei chiedere a Alessandro Milesi, vorrei fare due domande al dottor Milesi. Prima, lei si presenta come consulente finanziario indipendente, si può veramente essere indipendenti in questo campo? E la seconda domanda è: c'è molto da fare per fare divulgazione finanziaria in Italia? Allora mi dà un'opportunità per parlare un po' del nostro progetto. Dunque, per essere indipendenti c'è un requisito fondamentale: non bisogna vendere prodotti, bisogna occuparsi di titoli individuali, arrivare a conoscere le aziende. Uno dei due libri di cui parlava Roberto, il primo, ha il pregio di costruire una metrica. Tutti i sistemi nel mercato funzionano se seguono un metodo, funzionano nella maggior parte dei casi, ci si può sbagliare, questa è una missione che deve necessariamente essere fatta, perché uno degli aspetti che il secondo libro tratta è proprio questo, cioè di stare alla larga dagli imbonitori, per cui ogni occasione di mercato diventa un'opportunità. Su come costruire il progetto, il sito svolge una funzione di informazione e di costruzione di portafogli che vendiamo a un prezzo di 70 euro all'anno, abbiamo 15.000 sottoscrittori. Mancano due pezzi per arrivare al tema che lei tratta, un tema importante della formazione, quindi a monte dell'informazione, che noi inizieremo a trattare da settembre con una società di formazione importante attraverso modelli fruibili via internet, quindi offriremo dei modelli brevi di formazione sia a consulenti finanziari o promotori che a investitori individuali. E l'aspetto poi a valle è quello dell'esecuzione. Oggi con le banche c'è stata una recente polemica sostenuta da Consob, si tende a essere presentati con un'offerta prevalentemente di casa, essere vicini al cliente nell'esecuzione, quindi cercare di portarlo a trovare i migliori intermediari per eseguire al meglio operazioni su strumenti dove non vi sono conflitti di interesse, è il terzo pilastro importante. Quindi a nostro parere questo progetto si basa su tre fondamenta: la formazione, l'informazione e l'esecuzione. Ecco, per concludere, dottor Cepparo, questo è il secondo libro, questa è la rubrica di libri, parliamo essenzialmente di libri, quali saranno le prossime tappe? Dopo questo libro abbiamo in previsione l'uscita per metà settembre di un libro dedicato alle commodity, alle materie prime. È un settore che è molto poco conosciuto, addirittura è lo stesso autore che Stephenson, che è uno dei migliori analisti del Nord America nel settore specifico, lo definisce un mercato misterioso ed è interessantissimo perché con un linguaggio anche lì molto semplice, chiaro, introduce il lettore in un mondo che appare complicatissimo e speculativo, e che lo è effettivamente per molti versi, ma che dà delle opportunità anche al piccolo risparmiatore investitore di fare delle scelte oculate e non particolarmente rischiose, quindi cogliendo delle opportunità legate ai movimenti delle materie prime sulle società soprattutto. E quindi è un seguito di questo primo libro, del piccolo libro che salva i tuoi soldi. Io ringrazio il dottor Cepparo e il dottor Alessandro Milesi, editore il primo editore della collana di libri e il secondo titolare del sito www.finanze.net. Abbiamo parlato, partendo dallo spunto che dà il piccolo libro che salva i tuoi soldi di Jason Zweig, esito appunto da CHV Editori, 150 pagine per 19 euro. Ringrazio anche Filippo Reggi in regia e Luca Rinaldi in redazione. L'appuntamento con voi è per settimana prossima.